Giovedì 21 novembre del 2013, 87.9, la modulazione di frequenza Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere come? Sostenendola sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. E poi sul sito internet della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni e lì la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con Visionari tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi ci andremo un po' d'anticipo per degli impegni dei nostri ospiti e ci prolungheremo anche oltre le 15 perché quest'oggi la trasmissione del Teatro Valle non andrà in onda. Comunque, per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e invece tutte le informazioni sulla scaletta di oggi, ma anche sull'archivio, le trovate sul sito internet della radio alla voce trasmissioni visionari oppure anche su Facebook. Bene, diamo inizio ai collegamenti perché abbiamo appunto delle urgenze per quanto riguarda gli ospiti di quest'oggi. Cominciamo con il parlare del festival della 31esima edizione del Torino Film Festival. E anche quest'anno in collegamento con Emanuela Martini, vice direttore della 31esima edizione del Torino Film Festival, da domani 22 novembre fino al 30. Emanuela, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, intanto è un'edizione che arriva dopo la 30esima, quindi è anche un carico di storia quello che si porta dietro. È questa... un giro di boa, la maturità. Allora, intanto ecco l'importanza di un festival come quello di Torino, giunto alla 31esima edizione, Emanuela. Cosa rappresenta per la città, ma non solo? Ma per la città rappresenta moltissimo e va anche detto che la città, in realtà il pubblico della città rappresenta moltissimo per il festival, perché veramente a Torino c'è un pubblico abbastanza straordinario, c'è un pubblico di cinefili appassionati ma anche molto trasversali, di da una parte raffinatissimi e dall'altra molto entusiasti. C'è una tradizione storica a Torino proprio di passione della città per il cinema. Quindi per la città rappresenta come rappresenterebbe tutto sommato in qualsiasi altra città italiana, anche più grande di Torino, intanto l'occasione di vedere un mucchio di film che, visto come è messo oggi il mercato cinematografico, in particolare il mercato cinematografico italiano, altrimenti non si vedrebbero, o comunque non si vedrebbero sul grande schermo. Ormai siamo abbastanza indietro, siamo una delle ultime ruote del carro per importazione, non parlo solo di film italiani, di documentari o di generi un pochino di nicchia, ma anche di film americani, film orientali, film di vari paesi europei che non arrivano sui nostri schermi. E i festival, tutti i festival in realtà, sono una grande occasione anche da questo punto di vista, da questo punto di vista qui. E poi per me la cosa bella arrivata alla 31esima edizione è che, pur cambiando naturalmente da quando si chiamava Cinema Giovani 31 anni fa e arrivando a oggi, comunque, e questo è fondamentale, il Torino Film Festival è riuscito a mantenere un'identità forte. E credo che sia una caratteristica fondamentale per un festival che non sia Venezia o Cannes o Berlino, cioè che non sia un mega festival di internazionale. Quell'identità, appunto, in parte che aveva avuto quando si chiamava Cinema Giovani. Appunto, considerate che il concorso principale del Festival di Torino è ancora dedicato a opere di autori alla prima o alla seconda opera. Tu sei di nuovo alla vice direttore. Paolo Virzì esordisce alla direzione e ha dichiarato insomma di voler mettere insieme esigenze di cinema popolare e cinema d'autore. Ecco, quali sono le modalità previste per questa edizione, Emanuela? Allora, intanto io non demonizzerei, cioè in realtà la parola popolare, che purtroppo noi ci siamo abituati un pochino a considerare una parola negativa, probabilmente perché noi tendiamo moltissimo a legarla, per esempio, ai cinepanettoni, no? Cioè in realtà la parola popolare non solo in campo cinematografico, so talvolta anche in campo letterario, certo, dovrebbe avere una connotazione estremamente positiva. Cioè la cultura popolare è stata una grande fetta della cultura dell'Ottocento, del Novecento e lo sarà del 2000. Mescolare le carte, mescolare le cose, cioè il grande cinema popolare, appunto, che non è solo il cinema Bettoni, ma è stato per esempio la grande tradizione della commedia italiana, Sordi, Risi, Monicelli, tutti quanti quegli autori, è stato il grande cinema hollywoodiano classico, in gran parte è stato grande cinema popolare. Cioè, per cui il cinema popolare che può benissimo convivere con esperimenti con tendenze di estrema raffinatezza cinefila, e poi in mezzo naturalmente c'è tutto quello che sta all'interno di questo arco. Il grande pregio di Paolo Virzì probabilmente è stato dirla questa parola, cioè porre questo accento su una cosa che in realtà c'era già al Torino Film Festival, tant'è vero che Paolo non ha voluto cambiare il nome della mega sezione fuori concorso, che già da diversi anni non si chiama più fuori concorso ma si chiama Festa Mobile. Sì. Festa Mobile è un nome che c'è, un titolo di sezione che ci è sempre piaciuto a tutti molto ed è piaciuto molto anche a Paolo e l'ha conservato. Proprio quest'idea che lega da un lato la città e perciò l'idea di pubblico metropolitano, festa metropolitana che si sposta da una sala all'altra, le sale sono 11, per una cosa che è una festa, che può essere di estremo intrattenimento popolare, di qualità sempre comunque, oppure di estrema raffinatezza, e quindi tutto quanto mescolato. Paolo ha avuto questa buona qualità e ha anche scavato una piccolissima sottosezione di Festa Mobile che è dedicata, che abbiamo chiamato Europop, e che è dedicata ad alcuni film variamente campioni di incassi, oppure che si spera, anzi che si immagina diventeranno campioni di incassi nei rispettivi paesi, che sono appunto esempi di cinema popolare che probabilmente, magari in alcuni casi sì, in altri no, non necessariamente arriverebbero in distribuzione sul mercato italiano. Sì. Senti Emanuela, che mole di offerta ci sarà quest'anno e da quanti paesi più o meno, insomma? Paesi tanti, la mole di offerta mi pare che si aggiri intorno ai 185 titoli, compresa la prima parte della retrospettiva dedicata alla New Hollywood, cioè un grandissimo momento del cinema contemporaneo, che sarà in due parti, cioè quest'anno e l'anno passato. Purtroppo il numero dei paesi onestamente non me li sono contati e non ho in questo momento con me i numeri. Comunque nel solo concorso, che è fatto di 14 titoli, è rappresentata lì circa 9-10 paesi, per cui pensate a tutto il resto, il fuori concorso, settori documentari, settore folle, un po' crazy, che si chiama After Hours, che è una sezione notturna di genere, di cose stravaganti, di cose un po' da doppio programma classico. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti un po' la strutturazione. Hai parlato di Europop, di retrospettiva e adesso di questa piccola sezione. Ecco, principalmente quali sono le sezioni, come le avete suddivise? Sì, allora le sezioni sono Torino 31, che è il festival internazionale lungometraggi internazionale, appunto, di narrativi. Poi c'è il concorso dedicato ai documentari italiani e il concorso dedicato ai documentari internazionali e il concorso cortometraggi italiani. Poi c'è la mega sezione Festa Mobile, appunto, che è la sezione fuori concorso, in cui praticamente mettiamo tutti i film che amiamo, che abbiamo amato anche in altri festival, questo l'abbiamo sempre confessato, che non sono ancora arrivati in Italia naturalmente, e che non entrerebbero per vari motivi, anche perché il concorso 14 sono e 14 restano nel concorso. Poi appunto c'è After Hours, che sono una quindicina di titoli, lo dice il titolo stesso, appunto il doppio programma, il film della notte, il film da drive-in, però quello che per noi po' cinefili è il film da drive-in, quindi soprattutto thriller, noir, ma anche musicali, qualche horror, un po' di fantascienza, Jodorowsky, che ci sta perfettamente dentro in questo tipo di cose, oppure Shane Meadows su la riunificazione, la riunione dopo 15 anni degli Stone Roses. Mm-hmm. Resta Onde, che è la sezione appunto raffinatissima, sperimentale, anche questa con una quindicina di titoli, e un omaggio al regista Ulrich Vai. C'è la sezione È intanto in Italia, in cui praticamente alcuni cineasti italiani vengono a raccontare, portando spezzoni o portando prodotti finiti ma non narrativi, che cosa stanno facendo adesso, portando spezzoni dei film che stanno facendo, o provini dei loro film, o pezzi di sceneggiatura. Racconteranno in un tre quarti d'ora, un'oretta appunto, che cosa stanno facendo adesso. C'è Richard Rohrbacher, Gianni Zanasi, Maurizio Zaccaro, Zoro, cioè sono 7-8 giovani cineasti italiani. Senti... Europop l'ho già detto, e sì, poi c'è una piccola sezione dedicata alla grande televisione, dove oggi passa il grande cinema, che parte con Top of the Lake, che è la miniserie di Jack Campion. Emanuela, i luoghi del festival? I luoghi del festival sono le solite dall'anno scorso, le solite tre sale, scusate, 11 sale, cioè le tre sale del Cinema Massimo, le tre sale del Cinema Lux e le cinque sale del Cinema Reposi. Questo per quello che riguarda le sale. Poi naturalmente ci sono gli uffici del festival, che sono di fronte al Cinema Massimo, e poi c'è una innovazione di quest'anno, una lounge in Piazza Castello, nel Palazzo della Regione, una lounge nella quale, che sì, avevamo già un po' utilizzato l'anno scorso, ma che quest'anno invece verrà utilizzata a pieno ritmo, nella quale ci sono sia le conferenze stampa, la sala stampa, che una sorta di buffet che funziona per gli accreditati, sia a pranzo che a cena. Poi avverranno incontri stampa, interviste e cose di questo genere. Benissimo, allora spero di averli detti tutti. Emanuela, io ti ringrazio. Emanuela Martini, vice direttore della 31esima del Torino Film Festival, dal 22, quindi domani venerdì 22 novembre fino al 30. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a te, arrivederci. Ciao. Ok. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15 con un po' di flessibilità d'orario. Allora, per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica, visionari@ondarossa.info. Passiamo adesso a parlare di un po' di uscite in sala di oggi, giovedì 21 novembre, ma c'è anche altro. Siamo in collegamento con Francesca Bolognesi per la terza edizione di Cinemondo, uno sguardo sul Maghreb, all'Accademia di Francia a Roma, Villa Medici, da oggi 21 fino al 26 novembre. Francesca, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, grazie, buongiorno a voi. Ma credo che noi ci siamo già sentiti, se non sbaglio. Sì, può essere. Allora, Maghreb, ma tre paesi in particolare, se ricordo bene. Sì, infatti Cinemondo è la rassegna autunnale che apre un po' la programmazione cinematografica di Villa Medici, qui da noi, nella nostra sala cinema, e ogni anno creiamo un filo rouge geografico, geopolitico attorno a un paese messo all'onore, insomma, invitato qui da noi. Quest'anno abbiamo scelto una zona geografica, il Maghreb, e in particolar modo ci siamo concentrati sulla produzione cinematografica di Tunisia, Algeria e Marocco, declinandola poi in varie sezioni, vari sguardi, vari momenti cinematografici. Qua- Quante sono le opere che presenterete, Francesca? Ma in tutto penso saranno una ventina di film, adesso non ho il numero esatto. Comunque lo spirito di Cinemondo è veramente quello di dare proprio uno sguardo, ovviamente non esaustivo, comunque uno sguardo il più largo possibile attraverso il lungometraggio, il cortometraggio, l'immagine di archivio, uno spazio documentario. E da quest'anno una novità molto interessante, anche le video installazioni. Abbiamo creato uno spazio molto molto suggestivo qui all'interno di Villa Medici, assieme alla stilista francese Agnès B, che sarà proprio un percorso sonoro ed immagini all'interno di una cisterna, veramente uno spazio molto bello qua in Accademia. Questa è la novità di quest'anno, assieme appunto a una programmazione molto ricca sul documentario e una sezione panorama che è veramente uno sguardo ancora una volta non completo, ma che abbraccia comunque la cinematografia di questi paesi. Quali sono stati i criteri di scelta delle opere e se a tuo modo di vedere c'è un filo che le unisce con alcuni temi ricorrenti? Beh, senz'altro il filo conduttore è l'attualità cinematografica, l'attualità degli autori, l'autorità dei registi, ovviamente l'attualità da non dimenticare, questo sicuramente, malgrado noi, è il filo rouge della manifestazione, che è l'attualità storico-politica che attraversa questi paesi e che ovviamente li rende uniti e comunque con un percorso storico comune. D'altro canto balza piuttosto all'occhio il fatto che la maggior parte di questi film siano delle coproduzioni con la Francia. Questo non è assolutamente un criterio di scelta, ma una realtà di fatto dell'industria cinematografica, dell'industria di questi paesi, che appunto riesce ad esprimersi molto spesso grazie a delle coproduzioni, per lo più appunto con la Francia, con i paesi del nord o addirittura con gli Emirati Arabi. Algeria, Marocco, Tunisia, che quadro esce fuori dalle opere? Beh, sicuramente come dire un'urgenza e un bisogno di esprimersi, di espressione dei registi, questo è veramente balza insomma all'occhio, nel senso è veramente la realtà più forte, più presente. E poi sicuramente l'attualità storica, e quindi non possiamo fare a meno di confrontarci con insomma gli ultimi eventi e l'ultima primavera ancora in corso delle rivoluzioni arabe. Sì. Ecco, in questo senso quali sono le cose che ti hanno più colpito rispetto ai mutamenti in corso? Ma in realtà come dire non è facile in questo caso trovare dei criteri o comunque dare degli schemi, non è neanche questo l'interesse. Ad esempio, se penso all'invito veramente molto bello di cui siamo molto felici a Tariq Tegia, regista, videoasta, artista algerino, tra il resto appunto in concorso all'ultimo Festival di Roma con il suo ultimo film. Tariq Tegia, attraverso la sua opera colossale, nel senso non tanto di opere ma veramente di contenuti, di immagini, di sonorità, dà un messaggio piuttosto forte, che è quello appunto sulla storia dell'Algeria, sul passato non risolto delle guerre di Algeria e sull'attualità l'attualità appunto storico-politica di questo paese. Tra l'altro ricordo che Tariq Tegia è proprio l'invitato d'onore qui a Villa Medici, sarà con noi per presentare appunto i suoi due lungometraggi, Roma piuttosto che voi e In Land, quindi Nelle Terre, la traduzione italiana del suo film. Allora, ricordiamolo, terza edizione di Cinemondo, uno sguardo sul Maghreb all'Accademia di Francia a Roma, qui a Villa Medici, da oggi 21 fino al 26 novembre. Come è organizzata, quali sono gli orari giornalieri? Francesca? Sì, allora piuttosto comodi, nel senso che appunto la rassegna si declina sempre con due proiezioni tutti i giorni, 19:30-21:00. Moltissimi sono gli ospiti, quasi abbiamo invitato i registi di ogni film, quindi ci sarà un dibattito, una presentazione per ogni film. Gli orari sono tutto il giorno qui a Villa Medici, gli orari di biglietteria, dell'ingresso veramente abbiamo delle tariffe assolutamente competitive, 5 e 4 euro il biglietto ridotto, e ricordiamo veramente con una nota di particolare felicità, tutti i nostri film sono in formato originale, per lo più in pellicola e soprattutto in versione originale sottotitolata. Benissimo, un abbraccio Francesca, a risentirci presto. Grazie, a presto. Francesca Bolognesi per la terza edizione di Cinemondo, uno sguardo sul Maghreb. In collegamento con Claudia Bedogni di Satin Film per la distribuzione della moglie del poliziotto, in uscita in sala il 25 novembre. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben trovati a voi, grazie dell'invito. Allora, un film che esce in un giorno particolare, la giornata contro la violenza sulle donne. Il tema del film è di una giovane famiglia composta da padre, madre e bimba piccola, e una realtà di violenza domestica. Allora, raccontaci un po' di questa storia, Claudia. Sì, il film innanzitutto ci ha colpito come spettatori in primo luogo, proprio perché questo grande regista, che già il pubblico italiano ricorda per Il grande silenzio, il documentario che appunto ritraeva la quotidianità dei monaci della Grande Chartreuse di Grenoble, ha una grande sensibilità nell'entrare proprio con grande delicatezza comunque e riservo nella vita, nella quotidianità delle persone, e mantenendo un distacco che è solo apparente, ma che in realtà ti proietta completamente in quella che è una realtà, che può essere una realtà bella, una realtà armoniosa come era il caso dei monaci, oppure una realtà estremamente dura, anche se esteriormente appunto questo dolore non compare. E come spettatore, la prima volta che ho visto il film, quindi senza nessuna intenzione devo dire di procederne all'acquisizione dei diritti, mi sono ritrovata, come dire, parte integrante di questa storia, di questo dolore, di questa famiglia giovane, bella, apparentemente perfetta. Con una bimba meravigliosa, quello che penso tutti, no? Oggi abbiano voglia di avere, desiderio di avere, e invece che nasconde una realtà brutale di cui neanche gli stessi protagonisti sono in fondo consapevoli perfettamente, perché non c'è un orco cattivo, non c'è una netta distinzione tra bene e male, rimane una grande storia d'amore che però probabilmente per eccessiva emotività, per difficoltà, per incapacità di accettarsi, uno dei due protagonisti non riesce a vivere appieno, e quindi procede ad umiliare questa moglie, madre premurosa, affettuosa, e anche moglie che lo ama profondamente, quindi lo cerca di proteggere sia lui che la bambina, fino ad annientarla. E volevo chiederti, Claudia, ci sono e quali, secondo il tuo modo di vedere, gli elementi che danno universalità a questa storia? Assolutamente sì, perché il film è tedesco, ma in realtà la situazione è senza tempo e senza luogo, perché descrive una realtà che purtroppo anche noi in Italia oggi quotidianamente sentiamo dai giornali, magari ci tocca molto molto da vicino. Quindi sicuramente la teatralità non è fondamentale nel film, è una storia assolutamente universale, è un dramma personale ma che tocca tantissime persone, senz'altro, insomma, è dimostrato anche da media oggi, no? Da questa attenzione profonda che noi abbiamo, che probabilmente c'è sempre stata, probabilmente i mezzi di comunicazione oggi permettono di dare maggiore risalto e farne diventare forse anche purtroppo un dramma sociale comunemente vissuto e sentito rispetto al passato, però sicuramente è una realtà assolutamente universale. Oh, dicevi di un approccio distaccato dell'autore, che però poi è molto interno alla storia, rispettoso prima di tutto, che ricalca un po' lo stile che abbiamo conosciuto e apprezzato per Il Grande Silenzio. C'è un po' la stessa modalità quasi documentaristica anche in questo film di finzione? Diciamo che va oltre in modo, devo dire, talora, io in primis ammetto che dopo i primi 20 minuti probabilmente avrei voluto uccidere il regista, perché questa sua novità di introdurre dei cartelli inizio e fine di ogni capitolo con diversa durata è sicuramente spiazzante. In realtà, quando si passano, diciamo, i primi momenti iniziali del film e si capisce e la strada che la storia sta prendendo, si viene guidati e totalmente assorbiti. C'è chi appunto ha detto a Venezia che il film assorbe e si rimane intrappolati veramente come una ragnatela. Quindi questa è una scelta registica chiaramente indiscutibile, ma del resto il cinema è bello proprio per questo, le storie che si raccontano sono interessanti proprio per questo, perché si prestano alla discussione. E la scelta del regista è stata di utilizzare questi cartelli, sono ben 59 ad apertura e chiusura, quindi di momenti, di frammenti della quotidianità dei protagonisti, proprio per favorire, come dire, un'osservazione distante da parte dello spettatore, e anche lo sguardo del regista vuole essere così rispettoso e quindi distaccato. In realtà non bastano questi cartelli per sentirsi lontani, come dicevo prima, da questa storia, da una storia che invece alla fine rimane profondamente nell'animo, nel cuore, e tocca, e questa è la motivazione per cui noi di Satin ci siamo sentiti veramente coinvolti, anche desiderosi di fare conoscere una storia così al nostro pubblico, perché ci è rimasta dentro. Ecco, proprio questo volevo chiederti, Claudia, sulla scelta di distribuirlo in Italia e poi in una giornata come quella del 25 novembre, in quale senso? Quello di sensibilizzazione, di denuncia? Dici un po'. Sì, dunque permetto che a Venezia non avevo chiaramente idea della giornata, è nata veramente in un secondo momento, quindi non è stata, diciamo, un'operazione meditata, questo di abbinare il film alla giornata internazionale per la lotta contro la violenza appunto sulle donne. È stata un'occasione che abbiamo voluto cogliere. In realtà l'idea è nata perché io sono di radici emiliane, il comune di Reggio Emilia, che tra l'altro è partner dell'iniziativa che voglio ricordare, è sempre stato molto attivo sia per quanto riguarda appunto l'educazione dei bambini con questa famosa Reggio Children che ci onora nel mondo, e così come anche appunto la sensibilità rivolta alla violenza di genere, ma declinata nelle sue varie aspetti. In particolare è sempre stato molto vicino alla tematica delle donne, tant'è che è stata una delle prime, forse la prima istituzione pubblica ad ospitare, appunto, creare una casa delle donne per le donne vittime di violenza. Quindi sono stati loro stessi a mettersi in contatto con me, a presentarmi la responsabile dell'associazione L'Onda Sola, che tramite un gruppo di centri nazionali legati appunto al centro Dire mi hanno via volta contattato, e addirittura si sono adoperati in alcuni casi per cercare le sale. Quindi sono molto contenta, perché c'è stato un movimento, oserei dire, spontaneo, che è andato oltre la tradizionale distribuzione e la tradizionale fatica del distributore, che deve, come dire, supplicare gli esercenti per trovare un minimo di visibilità in sala. Sì. Per noi è stato un po' il contrario, abbiamo avuto una forza propulsiva che nasceva proprio dalle associazioni, quindi da chi aveva a cuore questa tematica. Ma quello che ci ha dato ancora più soddisfazione credo che sia stato il fatto di aver fatto vedere il film, perché come voi potete immaginare, quando si tratta di argomenti così vicini alla realtà, le persone che questa realtà l'accolgono, la vivono quotidianamente, sono le prime forse, no, che riescono a rilevare degli elementi di criticità o di dubbio su quello che è lo sguardo del regista. E devo dire che, contrariamente forse alle aspettative, che comunque è un film lungo di 3 ore con questi cartelli, comunque non è un film appunto di dinamiche commerciali, come dire, ritmi esaltanti, tutte le persone presenti, non cinefile, quindi persone che vanno al cinema per ascoltare e vivere delle storie, sono rimaste assolutamente colpite, così come sono rimaste colpite ed hanno apprezzato proprio la delicatezza del regista e la vivacità del racconto, che a quanto pare rispecchia effettivamente le relazioni che si creano in queste situazioni drammatiche tra marito e moglie, tra la coppia e anche nelle relazioni con la bambina e con i figli, appunto. Quindi diciamo che questa iniziativa è stata, è nata, è venuta, si è creata, si è forgiata strada facendo, senza un piano, si è unita a noi poi anche Amnesty International, a tante altre associazioni sempre che sono estremamente attive nell'accoglienza, che quindi si pongono come punto di riferimento per le donne vittime di violenza, da Merano ad Alghero, che appunto saluta affettuosamente per il brutto momento che stanno vivendo. Nonostante ciò sono assolutamente attive, dedite e proietteranno il film, infatti il 25. Quindi penso che sia si è creata una coralità che è molto bella, che dimostra che insomma grazie anche al cinema ci può essere proprio una trasversalità di obiettivi che tocca il cuore di tante persone, dalle istituzioni alle associazioni, e speriamo anche, se riusciamo, ad arrivare al grande pubblico, quindi che questa occasione sia anche un modo per far conoscere un film cosiddetto difficile, che probabilmente se non avesse avuto la possibilità non di questa giornata così importante avrebbe incontrato grandi difficoltà in una distribuzione commerciale tradizionale delle sale. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, Claudia, in chiusura, la moglie del poliziotto, allora intanto ti chiedo in quante copie uscirà, e ce lo puoi dire, questo è già avete delle cifre? Ma noi di fatto appunto questa settimana in cui ricorre, come dicevo, la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, ci saranno una trentina di città che ospiteranno la proiezione del film. Okay. La maggior parte è concentrata il 25, però poi altre anche il 26 e il 27. E ci sono già degli impegni da parte degli esercenti a continuare a dare vita anche in un secondo momento al film, quindi noi pensiamo sicuramente con l'anno nuovo, perché è un film che ha bisogno di un pubblico mirato, e quindi chiaramente inizia il periodo estivo con una programmazione più commerciale. Però siccome è stato così un po' riconosciuto come il film simbolo, il film emblema, dicevo appunto per le criticità che racconta, è stato eletto diciamo dalle associazioni, noi ci auguriamo che abbia una vita lunga e che possa essere poi proiettato con l'anno nuovo anche in altre città, e probabilmente sempre accompagnato da iniziative, da dibattiti, da convegni che rendono sicuramente, che arricchiscono la visione e che soprattutto permettono appunto che il film venga visto, apprezzato da un pubblico più ampio. Quindi diciamo non è una distribuzione tradizionale dell'uscita in copie che poi hanno una continuità di programmazione. Sì. Noi offriremo la possibilità appunto di arricchire i film in questa settimana con incontri e con dibattiti alla presenza del regista. Ecco, voglio ricordare anche che sarà con noi nelle proiezioni di Milano, di Reggio Emilia, di Roma e di Bologna, tutte accompagnate appunto da un incontro con il pubblico e con le associazioni. E dopodiché speriamo, ci auguriamo che il film con l'anno nuovo abbia una sua continuità, ma anche spontanea, quindi senza necessità veramente di programmazione molto rigida. Ecco, noi siamo contenti così che il film possa circolare, essere visto, essere un'occasione proprio di discussione, proprio per non dimenticare e tenere veramente alta l'attenzione su un fenomeno così doloroso che penso tocchi tutti da vicino. Ecco, proprio per chi volesse avere maggiori informazioni, ci puoi lasciare un sito internet di riferimento? Noi abbiamo, c'è la pagina Facebook del film, oppure potete mettervi in contatto con noi alla nostra pagina Facebook di Satine Film, e in ogni caso contattarci comunque direttamente anche in distribuzione. Ricordo i nostri uffici stampa, che sono Studio Punto e Virgola e Internos Web Communication e lo Studio Sottocorno di Milano. quindi insomma siamo facilmente raggiungibili. Bene. Anzi, mi piacerebbe tanto che ci fosse proprio una richiesta, come già del resto è accaduto, da parte di chi è interessato e ha voglia di vedere il film nelle proprie città, anche in provincia. Noi siamo anche associazioni culturali, siamo disposti assolutamente a organizzare proiezioni ad hoc e, a seconda appunto delle richieste, delle esigenze. Siamo molto contenti perché le proiezioni organizzate fino ad ora sono veramente state, come dire, richieste, sostenute, e speriamo che offrano appunto la possibilità di un bel dibattito, discussione, approfondimenti anche sull'argomento. Claudia, io ti ringrazio e a risentirci presto. Resta un attimo in linea. Sì, grazie a voi. Bene, questa era Claudia Bedogni di Satin Film per la distribuzione del film La moglie del poliziotto, in uscita in sala lunedì 25 novembre, giornata mondiale e contro la violenza sulle donne. Continuiamo a parlare di uscite in sala, per questa volta per la giornata di oggi invece, giovedì 21 novembre. Alessandro Rack, regista del film L'arte della felicità, in uscita in sala oggi, giovedì 21 novembre. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Allora Alessandro, un film d'animazione italiano che esce in sala già mi sembra una buona cosa di partenza. Sì, infatti noi siamo già soddisfatti. Raccontaci un po' di questa storia, di cosa si parla? Diciamo che l'idea di fare un film che si chiama che porta questo nome, L'arte della felicità, è un'idea che viene da lontano, da una manifestazione che da 9 anni organizza a Napoli il produttore del film, Luciano Stella, che poi tra l'altro è co-sceneggiatore insieme con me della storia. Lui voleva assolutamente riversare i contenuti di questa manifestazione, che appunto è una manifestazione di incontri sul tema dell'arte della felicità, che ogni anno poi porta un tema nello specifico, la paura, il desiderio. Scusate, sono in treno, perciò questo... Sì, sì, l'abbiamo. L'avete annunciato già. Sì. E quindi in pratica c'era l'idea di riversare questi contenuti e tutti questi documenti, questi incontri con personaggi ritenuti importanti in vari ambiti, potevano essere scientifici o filosofici o di studi sociali o in ambito religioso. E quindi in qualche maniera Luciano mi propose a suo tempo questo progetto, aveva già in mente di farne un lavoro in animazione e mi coinvolto per questa ragione, perché io poi mi occupo di animazione da sempre, insomma, da quando avevo 20 anni. E abbiamo cominciato a lavorarci, la sceneggiatura è stato un modo anche per conoscerci ed è partito tutto da lì. E mi è venuta fuori una storia di fiction dove chiaramente si sono riversate anche parecchie cose personali, sia mie che sue, di tutte le persone che poi a mano hanno dato un contributo a questo film che si è venuto costruendo nel durante, attraverso i contributi di queste persone. Non mi interrompi, ma mi ricevi nel frattempo? Sì, sì, ti ricevo e volevo chiederti... La scelta dell'animazione da parte sua è stata per avere una maggiore libertà visuale? Diciamo che il film è dedicato ad Alfredo Stella, che era un grandissimo appassionato di animazione, e io credo che ci sia anche questo dietro, questa scelta di fare un lavoro in animazione che porta questo titolo, e chiaramente la scelta di chiamare me era legata al fatto che io di questo mi occupo e non di qualcos'altro, però sicuramente l'animazione rispetto a un film davvero offriva la possibilità di raccontare in qualsiasi maniera si voglia, insomma. Non ha ristretto nessun tipo di animazione, se non chiaramente problemi di budget relativi alle scelte che si fanno, e quello chiaramente è stata anche nota dolente, insomma, di tutta la lavorazione. Si tratta di una, per quanto riguarda la sceneggiatura, di una, anche perché purtroppo non ho avuto modo di vederlo, di una storia corale? Una storia corale ti riferisci proprio alla scena narrata? Sì, sì, sì, esatto. È una storia che parla di due fratelli, e si concentra nello specifico su uno dei due fratelli che erano uniti dal sangue, dalla musica, e che improvvisamente separano le loro strade, e la storia si concentra su due o tre giorni di vita di uno di questi due fratelli che ha abbandonato la musica e ha preso una licenza da tassista, ed è un viaggio nel suo tassì con tutti i passeggeri di questo tassì, tutti i ricordi e tutte le proiezioni mentali anche del personaggio che si va a confondere all'interno di questo suo tassì. È un film che racconta anche un'urgenza che improvvisamente matura in quadro questi due o tre giorni di vita del personaggio principale. È un film che io so raccontare più attraverso il film che non attraverso le presentazioni radiofoniche. Senti, a questo punto la domanda, dato anche il titolo, in cosa consiste la felicità? Mi ripeti la domanda, non sono riuscito a sentire. La curiosità che è data anche dal titolo, volevo chiederti. Io ti sento bene, cioè bene, insomma. Dove eravamo rimasti? Il nostro è un percorso a tappe verso quest'arte della felicità. No, al titolo, la fascinazione del titolo, volevo chiederti qual è, se esce fuori anche dalle immagini, il senso della felicità, e dato anche il titolo stesso. Vediamo ancora qual è? Scusami. Il senso della felicità, e secondo anche il tuo modo di vedere, e se c'è un'arte, quindi un modo di costruirla, questa felicità. Diciamo che la manifestazione a cui alludevo prima partiva dal presupposto dell'esistenza di un'arte sapienziale della felicità, cioè in qualche maniera tutto il patrimonio di strumenti della mente e dell'anima per amministrare o addivenire o far fiorire la propria felicità. Sicuramente esiste in qualche maniera una tradizione di ricerca, anzi più di una tradizione di ricerca, le religioni stesse in qualche maniera si propongono a strumento in questo senso. Il film non propone sicuramente questo, non propone uno strumento o una teoria nello specifico, ma propone degli spunti, delle possibilità che in alcuni casi sono incarnati dai passeggeri del taxi. E in altri casi magari invece si possono evincere dall'interpretazione degli accadimenti. Mi ricevi sempre, Federico? Sì, sì. Ah, ok, no, perché no, mi sono in apprensione. e quindi, diciamo, io purtroppo eravamo in un tunnel, quindi ho colto solo una porzione della tua domanda, spero di star rispondendo bene. Comunque, continuo su questa strada. Sì, no, ti chiedevo, Alessandro, se c'è, anche a tuo modo di vedere, un senso della felicità. Ma guarda, io personalmente lo leggo molto alla curiosità, alla felicità. Sì, sì. Penso che in linea di massima, anche nel momento in cui ti tagliano le gambe, ti massacrano, se ci sta una cosa che tu assolutamente volevi sapere, prima di andartene per sempre, rimane comunque con l'orecchio appizzato. Quindi in qualche maniera la curiosità è uno strumento che ti riesce a tirare anche quando il tuo umore sembrerebbe distrutto, e quando finché c'è curiosità c'è una speranza, c'è stata una voglia anche di, cioè forse si coincide automaticamente con l'idea di felicità se si sta in una lotta di esplorazione e curiosità. Bene, bene, quindi questa è una buona base, la curiosità e la sperimentazione. Io ti ringrazio, Alessandro. Senti, per saperne di più sul film, ma anche sulla tua attività, visto che insomma sono 20 anni che lavori nell'animazione, hai un sito internet di riferimento? Diciamo che per questo film c'è un profilo Facebook che è L'Arte della Felicità, il film, e c'è credo anche il Twitter e il sito di Mad Entertainment, che è la casa di produzione che ha realizzato il film. Per quello che riguarda me, c'è un blog su Blogspot che porta il mio nome e cognome, Alessandro Racco, blogspot.com, dove sono i miei materiali un po' più vecchi, perché tutto questo periodo non ho avuto modo di aggiornare nulla, visto che ero molto preso dalla lavorazione del film, quindi questo progetto invece è molto più collettivo non vede semplicemente investire la mia arte. Proprio in questo, mi segui sempre, Federico? Proprio in questo senso volevo chiederti quante persone hanno lavorato alla realizzazione di quest'opera. Guarda, davvero pochissime rispetto, se si fa un raffronto con qualsiasi altro progetto, infatti sui titoli di coda ci siamo permessi addirittura di mettere il nome e poi dopo di conseguenza di seguito elencare le mansioni che ognuna di quelle persone ha avuto, quindi quasi all'opposto rispetto a... mi faccio l'annuncio dell'essere. Scusate. E quindi dicevo, ogni persona ha avuto più ruoli, questo a far capire anche in qualche maniera erano davvero un nucleo piccolo, soprattutto all'inizio ci abbiamo lavorato una decina di persone, sto parlando solamente delle persone che hanno operato sull'aspetto visivo del film, e sul finale del film quando siamo resi conto che questo miracolo si può dire a farlo, no? Budget comunque, quindi negli ultimi mesi con altre persone, ma non ti saprei dire. Diciamo nel visivo saranno state una ventina di persone al massimo, poi ci sono stati però i musicisti, tutti i contributi della scena musicale partenopea giovane, quindi tutte persone che ci hanno concesso gratuitamente i loro pezzi e alcune che in qualche maniera hanno anche arrangiato dei pezzi nello specifico per il film, e poi ci sono le musiche originali di Antonio Frisa e Luigi Scialdone. Quindi è stato un lavoro di grande partecipazione dove le persone si sono aggiunte nel tempo. Sì, sì, sì. Ecco, invece stavi continuando. No, nel senso di un film fatto proprio con il territorio, dove poi il territorio piano piano è diventato protagonista, sia sta in qualche maniera all'interno del soggetto della storia, sta all'interno è l'ambientazione, sia in qualche maniera proprio ha partecipato come maestranze al film. Sì. Oh, ecco, la mia domanda era, visto che si tratta di animazione, rispetto proprio al segno, ci sono stati, avete avuto dei riferimenti iconografici? Guarda, in linea massima le persone che hanno lavorato al film, almeno il gruppo di base, è composto da tutte persone che hanno una grande competenza e quindi anche un grande background del visivo, quindi sono persone innamorate dell'illustrazione, del fumetto, del cartone animato e della pittura e quant'altro, quindi in qualche maniera tutte quante persone che hanno portato con sé un gusto e delle sensibilità e delle soluzioni visive. Sì, sì, sì. Se ti devo dire che c'è stato un riferimento per noi, no, perché tutto quello che è venuto fuori è frutto di esigenze tecniche, economico-produttive e artistiche allo stesso tempo, e quindi non poteva che essere qualcosa di specifico. E poi no, insomma no, non c'è stato un riferimento. Casomai i riferimenti potevano essere all'inizio tra me e Luciano per orientarci meglio sul tipo di operazione che andavamo a fare, però sì, sì, comunque sì, non è che ne siamo riusciti a trovarne molti. Senti Alessandro, in quante sale uscirà? Non ti so dire il numero delle sale, Carolina, tu sai il numero delle 23 sale. 23 diciamo, sale. Si è cercato sì, 23, 25, si è cercato di coprire i maggiori centri italiani, però con qualche defaianza in questo senso. E sulla pagina di Repubblica, mi dice Carolina, ci sono tutte le sale d'Italia in cui compare il film. Benissimo. Alessandro, è stato un piacere, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie, grazie mille. Buon lavoro a tutti. Ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Rack con la K, regista dell'Arte della Felicità, in uscita in sala oggi giovedì 21 novembre. E abbiamo sentito anche il numero delle copie. Per quanto riguarda Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 le informazioni, la scaletta e l'archivio potete trovarlo sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari, anche su Facebook sempre con Visionari. Proseguiamo con i collegamenti sempre per quanto riguarda le uscite in sala di oggi giovedì 21 novembre, che anche gli appuntamenti per i prossimi giorni legati anche al Festival di Torino. È con noi Edoardo Morabito, regista del documentario I Fantasmi di San Berillo, che sarà presentato, proiettato alla 31esima edizione del Torino Film Festival il 25, il 26 e il 27 novembre prossimi. Edoardo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, buongiorno. Tra l'altro, quello di San Berillo è un argomento di cui abbiamo già parlato con un altro documentario in pillole una creatura del laboratorio Zalab, quindi disponibile anche online. Ne abbiamo parlato con il regista, anche lui catanese, quindi che parlava proprio del suo territorio. Allora, raccontaci un po', Edoardo, cos'è questo I Fantasmi di San Berillo? Il Fantasmi San Berillo è la storia di questo quartiere, che è stato uno dei quartieri a luce rossa più importanti del Mediterraneo, ma non solo, è stato anche lo sventramento più grande dal secondo dopoguerra in Italia, cioè è stato distrutto quasi per intero e oggi è un deserto in centro storico con poche prostitute che sono rimaste. E quindi io racconto un po' questo quartiere, questa specie di organismo vivente, i suoi fantasmi di ieri e di oggi, quindi appunto quei pochi che ancora lavorano lì, e i fantasmi di ieri, i 30.000 deportati per esempio dello sventramento in periferia, o scrittori come Goliarda Sapienza che ritorna per le strade del quartiere in cui è cresciuta, e basta, in un sogno, però in una ricostruzione abbastanza per suggestioni molto onirica. Ecco, ne avevamo parlato proprio con Carlo Lo Giudice, le voragini di San Berillo, quello era il titolo del suo piccolo. Sì, le voragini sono un altro pezzo, perché è rimasto un pezzettino che è quello in cui sono andato io, e tutto il resto del quartiere è stato edificato in maniera, con l'edilizia anni 60, in maniera abbastanza spiacevole. E ne rimangono delle voragini, quelle voragini di San Berillo, in un'altra parte, per problemi vari, tecnici, legati a permessi o del genere. Oh, mi sembra piuttosto emblematico, queste voragini sembrano un po' la ferita aperta di una città, il più grosso, uno dei più grossi, una grande opera rimasta incompiuta per tanti versi. Sì, grande opera già abominevole di per sé. Poi diciamo ancora più tremendo se si considera gli effetti, e il risultato è l'incompiutezza, sì. Che per fortuna mi ha lasciato un pezzetto che è molto dove ho girato e che comunque è uno degli angoli più belli della città, che in un'idea naturalmente di sviluppo della città potrebbe diventare una perla, ma in questo momento non lo è. Senti, dicevi di un tono... Di un tono onirico. Come hai cercato i tuoi fantasmi in giro per questa zona? Beh, i fantasmi li ho cercato a lungo, infatti ho impiegato 4 anni insieme a Irma Vecchio, che è la direttrice della fotografia nonché co-sceneggiatrice con cui abbiamo preso la menzione speciale al Solinas nel 2010, e li ho cercati con ricerche storiche molto lunghe, e poi seguendo le tracce rimaste nel quartiere, quindi ho trovato vecchi abitanti, alcuni trasferiti in periferia, appunto in quel quartiere costruito apposta per loro, in personale tremendo ai tempi almeno, o persone che invece vivevano in tutt'altra parte della città, ormai in condizioni sicuramente più agiate, e così ho messo, insomma, ho fatto questa passeggiata ideale per queste vie. Emergono questi fantasmi. Ecco, che caratteristiche. Uno dei fantasmi, scusa, sì, dicevo, sì, molto importante, appunto. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Sentite? Sì, sì. Ecco, uno dei fantasmi molto importanti che apre il documentario e che ogni tanto ritorna è quello di Goliarda Sapienza, come dicevo, questa scrittrice morta in disgrazia e poi scoperta e lanciata in Francia, ovviamente, qualche anno fa, e la cui voce e i testi sono interpretati da Donatella Finocchiaro. Che ci accompagna e poi ci chiude il film. Dicevo, che caratteristiche hanno questi fantasmi? Perché li hai scelti? Perché li ho scelti? Beh, li ho scelti perché in qualche modo ognuno di loro racconta indirettamente, più che altro, un aspetto della vita del quartiere. Sì. E quindi c'è la nostalgia, il nostalgico, appunto, che ora vive comunque riva al mare o bene, ecco, ha condotto una vita abbastanza tranquilla e agiata, che ritorna per le strade e quindi ricorda questi odori, tutto quel mondo e la sua infanzia. E per esempio questo è un aspetto che poi trascende un po' dal San Berillo, no? Parla un po' di tutti noi, questa nostalgia che ci portiamo sempre dietro, di un passato, come se fosse qualcosa di che ci potesse salvare, il passato stesso. Oppure c'è Vincenzo, quello trasferito, uno dei 30.000 trasferiti in periferia, che appunto mi in qualche modo mi esplica tutto il discorso dell'alienazione urbanistica e sociale ed economica, perché molte attività sono poi andate perdute, perché era anche il centro artigiano della città San Berillo, in questo quartiere lunare in cui è approdato insieme a tutti gli altri, a volte con asinelli o con carretti con cui si portavano tutto e via dicendo. Poi invece le prostitute mi raccontano indirettamente del periodo in cui dagli anni 60 fino al 2000, anno in cui c'è stato un blitz con cui hanno chiuso il quartiere definitivamente, era un quartiere pieno con centinaia, migliaia di prostitute che ci lavoravano, e quindi loro in qualche modo sono i testimoni in diretta di quell'epoca. Goliarda Sapienza, appunto, ripeto, è invece racconta un pochettino da un punto di vista mitologico di questi segni della città, di una terra piena di mitologia, come sai, che è la Sicilia, e quindi di questo vulcano che sputa architetti di lava, che fa trasformare la gente con cui parla da uomini a donne, da stupidi a intelligenti o viceversa. E quindi ogni fantasma mi racconta una parte del percorso della storia di San Berillo che non ho trattato in maniera cronologica o giornalisticamente, ma così, per suggestioni, ecco. Credo che alla fine si riesca ad avere un quadro generale, però avendo fatto un viaggio, appunto, come dicevo, onirico, più che una ricostruzione storica o giornalistica. Ecco, Edoardo, volevo chiederti, allora, una scrittrice, gli artigiani, le prostitute, come viveva il resto della città questo quartiere? Come viveva e quando dici tu? Quando era un quartiere ancora vivo, ecco, il resto della città come lo percepiva, come lo viveva questo quartiere? Beh, allora, fino al 58, velocemente, molto velocemente, allora, fino al 58 era il quartiere, appunto, artigiano e vivo e pulsante della città, dove si concentrano tutte le case chiuse. C'è questa data che è importante nel documentario, nella storia di San Berillo, perché il 58 è l'anno in cui avviene la legge Merlin e sì, quindi iniziano sì. A distruggere il quartiere. Quindi chiudono le case chiuse, nello stesso anno, guarda caso, distruggono tutto il quartiere. E ai tempi era una vergogna, no? Infatti c'erano delle. Siccome la vecchia struttura della città era tutta per cunicoli, vie strette, gli ingressi erano un po' nascosti, quindi la gente andava a divertirsi, quindi non solo a consumare sesso, ma anche a mangiare, a bere, perché era così che si viveva in maniera, appunto, quatti entravano nel quartiere. Dopo, il quartiere è stato ignorato ancora, quando era pieno di migliaia di prostitute fino al 2000 era un angolo, un buco nero di cui non si parlava, di cui io ricordo da ragazzino ci si andava così per guardare questo mondo incredibile, pieno di colori, di fuochi per le strade, con tutte queste donne che si affacciavano, ed era come in qualche modo che non esistesse per la città. Sì. E questa cosa non so se è causata anche dall'oblio a cui tende il siciliano, ma la distruzione stessa e il fatto che in quel centro storico, dove ora ci sono i palazzi delle banche, i grattacieli tremendi, ci fosse un relativamente recentemente, ecco, perché parliamo, tutto si è conclusa l'operazione in 10 anni, al 68, ci fosse un'altra città, un altro pezzo, sembra averlo rimosso tutti. E questa è una cosa che comunque ha avuto sempre a che fare col quartiere virale, no? La sì. Rimozione, il tenerlo nascosto, e quindi forse anche per questo chissà si tende a dimenticare o non voler sapere. Non saprei. Senti Edoardo, allora, presentato dal 25 al 27 al Torino Film Festival, c'è già in mente una distribuzione? Ma no, non c'è una distribuzione in mente, spero che questo, appunto, sia un battesimo e non un funerale. Dopo il film avrà una vita, diciamo, produttivamente, appunto. C'è da dire che è un'autoproduzione, però a un certo punto è entrata anche la Film Commission Regione Sicilia e ci ha aiutato a terminare, a portare a termine questo lavoro, ma non c'è ancora, diciamo, una pianificazione, okay, da un punto di vista distributivo. Allora, in questo caso ci terremo informati. E per quanto riguarda sia il tuo lavoro che questo documentario in particolare, su internet avete un sito? Sì, abbiamo un sito. Il sito del film e della nostra piccola produzione con cui l'abbiamo prodotto, che è www.lemurfilm, i fantasmi di San Berillo.it. Benissimo. Lì si trovano informazioni, trailer, è tutto. Edoardo, io ti ringrazio e grazie a te. In bocca al lupo per il festival e a risentirci. Crepasse, d'accordo. A presto. Ciao Edoardo. Ciao. Edoardo Morabito, regista del documentario I fantasmi di San Berillo. Franco Zuliani di Officine Ubu per la distribuzione del Tocco del Peccato, in uscita in sala oggi giovedì 21 novembre. E Franco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti e benvenuti anche a tutti gli spettatori da parte mia. Il Tocco del Peccato, un film cinese, il che già è una, insomma, abbastanza una rarità per le nostre sale. Ho avuto modo di vederlo e apprezzarlo. Come lo racconteresti in breve, Franco? Ma è uno spaccato di una Cina come forse finora in Italia non si è mai riusciti a vederla, sotto questo punto di vista molto interno, molto particolare, perché il regista ha basato il film su quattro storie realmente accadute e che dimostrano come questa crescita molto veloce di questo gigante dell'economia di questi ultimi anni abbia però esasperato i conflitti tra le classi sociali, e quindi è stata una crescita che ha generato diversi problemi, a partire, non so, dalla corruzione che è molto sviluppata, come ad esempio è stato anche in Russia, e appunto ha creato dei disequilibri tra le classi sociali, creando persone ricchissime e masse che sono rimaste molto povere. Con la distribuzione della ricchezza che ha conquistato la Cina non è stata equamente distribuita. Ecco, il regista lo avevamo già apprezzato per Still Life qui in Italia, e la cosa che colpisce di più in questi quattro episodi che compongono il film è appunto questo arrivismo esasperato e una violenza anche abbastanza molto forte, che insomma molto disturbante come sì, però io trovo che sia anche in parte giustificata, certo. Poiché questa oppressione, veramente questa arroganza di questi nuovi ricchi, come ad esempio nell'episodio impersonato dalla moglie del regista, Zhao Tao, che è una, nel film è una receptionist di una sauna, con anche annessi e connessi, massaggi e altre cose che potete immaginare. Quando di fronte all'arroganza di un ricco cliente che vuole avere da lei una certa prestazione anziché dalle ragazze che sono adibite a queste prestazioni, a un certo punto reagisce in maniera molto violenta, ma diciamo che è commisurata anche alla grande arroganza di questi nuovi ricchi. Sì. Come anche nel primo episodio, dove c'è un minatore che reclama ai suoi capi, ricorda le promesse che avevano fatto, che quando hanno avuto la proprietà di una miniera a suo tempo statale, e le cose fossero andate bene, avrebbero ridistribuito gli utili o parte dei ricavi, dei grandi ricavi di questa miniera, e invece non hanno mai fatto nulla di tutte queste promesse. E a un certo punto, esasperato, questo minatore fa una strage dei suoi due capi. Quindi sì, certo, non sono da giustificare in pieno queste azioni, però il regista forse ha voluto esasperare, sì, questi stati d'animo della gente oppressa, dai furbi, dai nuovi arricchiti, come ce ne sono in queste parti del mondo che hanno avuto uno sviluppo così, così veloce, così turbolento, e vuole far vedere che le reazioni a volte, insomma, sono un po' molto forti, ecco, sì, diciamo. Sì, sì. Franco, quali sono gli elementi che più vi hanno convinto e avete più apprezzato per basare la vostra scelta di distribuirlo in Italia? È un film che abbiamo trovato particolarmente spettacolare, con una regia ottima, tant'è vero che a Cannes ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, sì, ma sì, era dato tra i papabili anche per un premio maggiore, come poteva essere miglior regia o miglior film, poiché ha un ottimo ritmo, è girato molto bene, con grande dispiego di mezzi, si vede finalmente una Cina che non è facile vedere in altro modo, e insomma l'abbiamo trovato molto interessante, non solo sull'aspetto sociale, ma anche riguardo appunto alle storie che racconta, sì, la sceneggiatura, alla recitazione degli attori, che sono veramente bravi, e la dimostrazione di questo è, guardando i giornali di oggi, il giorno dell'uscita, ci sono parecchie recensioni che sono veramente molto molto positive sul film. Zanche aveva già vinto il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia con Still Life, e ti chiedo anche qual è come vedi la nuova cinematografia cinese che arriva anche nel resto del mondo? Beh, vedo che stanno facendo dei passi notevoli, e tra l'altro riescono a girare questi film con dei ritmi che qua in Europa, soprattutto in Italia, noi non ci sogniamo neanche. Noi abbiamo anche già distribuito un film di Takashi Miike, giapponese, che gira uno o due film all'anno, ma film molto ma molto complessi, molto ricchi, che richiedono un budget e un'organizzazione veramente notevole, e non capiamo veramente come fanno in Asia, in Cina, in Corea, in Giappone a fare questi film così ben fatti, così complessi, in così poco tempo, veramente. Questo io lo trovo una cosa molto sorprendente. Sì. Oh, da infatti oggi anche Kim Ki-duk, sì, è un altro di questi registi che spesso sforna dei film notevoli e li gira in 6 mesi, 9 mesi, in pochissimo tempo. Sì, sì, sì. Oh, Franco, da oggi nelle sale, in quante copie Il Tocco del Peccato? Purtroppo solo una quindicina, perché il momento era particolarmente denso di film in uscita, e perché purtroppo qualche esercente ha ancora verso i film asiatici ha ancora delle remore, pensano che siano film non graditi al pubblico, che magari siano film di nicchia, noiosi o cose di questo genere, ma non mi sembra proprio che invece sia il caso di questo film, che invece ha un ritmo e una ricchezza che insomma non è tipica dei film asiatici. Mm-hmm. Quindi purtroppo hanno sottovalutato questo film, per cui speriamo settimana prossima di allargare di parecchio il numero delle copie. Cosa c'è poi in cantiere per Officine Ubu per le prossime uscite anche? Ci sono 2 giorni a New York, che è una commedia di Julie Delpy, con lei anche come protagonista, Chris Rock e Vincent Gallo, Oh, Vincent Gallo, era un po' che non... che... Sì, era un po' che non si vedeva. Non si vedeva. E questa commedia è un po' collegata alla sua precedente Due giorni a Parigi. Questa volta invece siamo a New York, dove lei vive con Chris Rock, e improvvisamente arriva la sua famiglia dalla Francia, e la differenza di lingua e di cultura tra Francia e newyorkesi genererà una serie di incomprensioni e di insomma situazioni particolarmente divertenti e interessanti. Senti, e per ulteriori informazioni il vostro sito internet? È officineubu.com. Benissimo. Franco, io ti ringrazio e a risentirci alla prossima. Va bene, grazie a tutti. Buona giornata. Buon cinema. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Franco Zuliani di Officine Ubu per la distribuzione del Tocco del Peccato in uscita in sala oggi giovedì 21 novembre. Visionari su Radio Onda Rossa. Per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info. Enrico Maria Artale, regista del film Il Terzo Tempo, in uscita in sala oggi, giovedì 21 novembre. Enrico, ben ritrovato. Ciao, buongiorno, buonasera. Dico ben ritrovato perché noi ci eravamo sentiti per un tuo lavoro precedente, un documentario, e anche lì si parlava di rugby, giusto? Infatti, per fortuna sei uno dei pochi a cui non devo spiegare come è nata e da dove viene questa idea. Ovviamente dopo quel film aquilano io mi sono appassionato al rugby, e da lì poi insomma l'esigenza e il desiderio di raccontare una storia di finzione che parlasse di un singolo personaggio invece che di un collettivo. Ecco, tra l'altro la curiosità c'è, che ne è della squadra di rugby dell'Aquila? La squadra di rugby dell'Aquila ha militato per alcuni anni in Serie A dopo che era risalita proprio quell'anno. L'anno scorso, con uno spareggio abbastanza sfortunato, è tornato in B, dove adesso sta dominando, e quindi io ieri sera ero all'Aquila per per cui ho incontrato alcuni ragazzi, insomma, e gli ho augurato ovviamente di tornare nella massima serie il prima possibile. Allora, Il Terzo Tempo chiaramente è piuttosto esplicito nel richiamare il rugby, e come racconteresti in breve la storia che racconti? Beh, guarda, Samuel, che è il protagonista, è un ragazzo che esce dal carcere minorile con quelle difficoltà tipiche, insomma, nei rapporti con le altre persone, di fiducia, una persona molto aggressiva, violenta, chiusa, e incontra un assistente sociale che, diciamo, sta messo peggio di lui, perché insomma un po' depresso, ha perso la moglie. La persona meno adatta, diciamo, è quella meno incline ad aiutarlo, tant'è che il rapporto finisce un po' per rovesciarsi. I due non fanno altro che insomma cercare di danneggiarsi a vicenda il più possibile, con uno spirito abbastanza vendicativo, solo che, come dire, anche senza volerlo, quando si mette in mezzo questo sport e tante altre cose che accadono, in un modo o nell'altro si creano i presupposti per un rapporto, diciamo. Quindi non è una storia paternalista, diciamo, dove c'è il solito allenatore che vuole aiutare il ragazzo difficile, niente di tutto questo, insomma, sono personaggi duri che resteranno duri fino alla fine, insomma, senza particolare buonismo, però che trovano nello sport, nello spirito della squadra, no, uno sfogo alle proprie energie negative, un modo per creare delle nuove prospettive di vita. Oh, considerato che prima parlavamo del documentario, il passaggio cosa ti ha ispirato in questo passaggio, e come sono stati gli approcci da passare da un linguaggio all'altro? Beh, in realtà è molto stimolante, perché in qualche modo ciò che tu non puoi fare in un documentario, almeno in un documentario sportivo come era il nostro, è quello che ti stimola poi a continuamente a cercare delle nuove sfide da provare in un film di finzione. Banalmente parlando proprio dello sport, ma il film non è che sia così tanto centrato soltanto sul rugby, però parlando dello sport, ovviamente lì noi eravamo costretti a filmare, diciamo, da bordo campo in un modo televisivo, no? Sì. E invece in questo caso poter entrare in mezzo al gioco, costruire del gioco in funzione anche della macchina da presa in un modo molto realistico, perché poi i registi che l'hanno visto sono stati molto soddisfatti, però ovviamente ti dà delle possibilità stilistiche completamente diverse. Poi la cosa principale è chiaramente lo sviluppo di un personaggio. Ci tenevo a raccontare un adolescente vicino a quelli che conoscevo quando ero ragazzino, che avesse certe caratteristiche, che non fosse edulcorato e al tempo stesso che non fosse il solito adolescente del film drammatico italiano visto dai cinquantenni con un certo occhio, che poi trova la sua la sua liberazione in un modo abbastanza prevedibile. Il nostro è un ragazzo sì violento, ma anche molto scherzoso, sarcastico, e quindi credo che molti coetanei e quant'altro ci si possano riconoscere, per almeno in alcuni aspetti. Sì, sì. Oh, Enrico, alle spalle del protagonista una famiglia inesistente, e come l'hai voluto e come l'hai trovato? L'attore, intendi? Sì. Guarda, io non faccio moltissimi provini, perché in realtà mi piace lavorare molto a lungo con delle persone, quindi automaticamente questo restringe un po' i tempi. Io Lorenzo è stata una delle prime persone che ho visto e da subito ho avuto un'ottima sensazione. Poi abbiamo lavorato per 2 mesi prima che io lo scegliessi, vedendoci molto spesso, cambiando insieme il personaggio, perché io volevo capire come lui poteva contribuire in qualche modo al personaggio. E quando siamo arrivati sul set, ormai avevamo iniziato a lavorare già, considerato, da 5-6 mesi, per cui credo che la forza del protagonista, che in assoluto secondo me è la forza del film, dipende da tutto questo lavoro che è stato fatto in precedenza, proprio di scrittura, di intesa e di comprensione del personaggio. Ecco, proprio a proposito di scrittura, si parla di carcere minorile, su cosa ti sei basato per la stesura della sceneggiatura? Beh, guarda, in Italia per fortuna esistono moltissimi programmi che legano lo sport, in particolare il rugby, alle realtà carcerarie e anche minorili. A Nisida, per esempio, nel minorile di Napoli esiste una squadra da alcuni anni, per cui il nostro film prende spunto da elementi che sono assolutamente reali. Io mi sono documentato, ho incontrato persone, ho fatto tutto questo lavoro all'inizio, anche quando poi inizialmente scrivevo con il soggetto, con Alessandro Guda, che è un ragazzo che ha fatto altri corsi sul rugby, in qualche modo lui aveva moltissimo materiale, per cui c'era tutto un lavoro che andava avanti magari da anni, anche prima di quando io mi sono inserito nel progetto. La nostra non è una storia vera, nel senso che non prende direttamente spunto da un singolo episodio, ma da tutto un magma di realtà esistenti che abbiamo conosciuto a fondo. Oh, Enrico, il terzo tempo è una pratica nobile del rugby, per cui al termine della partita non c'è più ostilità tra le squadre che si sono contese la vittoria finale. Ecco, cosa ti piace del rugby? Beh, il fatto che certi valori che normalmente vengono predicati nello sport, in generale nella vita, lì non siano appiccicati dall'esterno un orpello o un discorso, no? Ma sono proprio incarnati dalle regole e dal modo in cui funziona il gioco. Tu non sei tenuto a conoscere tutte le leggi del rugby, così come quando vivi in una nazione non sei tenuto a conoscere tutte le leggi, ma vivi secondo dei principi fondamentali. Sai che ad esempio il pallone non si può passare in avanti, e quindi quando corri con il pallone alle tue spalle, anche se non li vedi, i tuoi compagni stanno correndo perché sono pronti nel momento in cui cadi a terra a proteggerti e a sostenerti. Quindi io credo che la cosa bella del rugby è che chi inizia a giocarlo anche da piccolo questi principi li interiorizza come in un modo naturale, no? Sì. E per questo poi i rugbisti ci tengono sempre a dire non si è mai si è rugbisti e non giocatori di rugby, e quindi non si è mai ex rugbisti, no? Si è rugbisti per tutta la vita, perché queste cose fanno parte di questo sport in un modo autentico e naturale. Non è semplicemente un discorso che si fa sul fair play o sulla correttezza in campo, no, lo si impara proprio sulle proprie ossa. Da oggi nelle sale il terzo tempo. Enrico, quante sono le sale di partenza? In realtà 168. Beh, niente male, quindi ce ne sono abbastanza. Spero che il pubblico arrivi. Non è un film solo per gli appassionati di rugby, assolutamente. Noi abbiamo battuto molto il tasto su questo, perché ci teniamo che anche gli appassionati di rugby, che generalmente sono diffidenti, vadano a vedere questo film, perché il rugby qui è migliore che, in Invictus o in altri film che sono stati fatti in passato. Però non è un film che parla soltanto di rugby, certo. È un film che parla di giovani, prima di tutto di ragazzi, in un modo molto autentico e anche molto divertente, per cui io spero che, insomma, che il pubblico dia una buona risposta. Io ti abbraccio e a risentirci alla prossima. A presto, ciao Federico, grazie ancora. Ciao Enrico. Ciao. Enrico Maria Artale, regista del film Il Terzo Tempo, in uscita oggi nelle sale, giovedì 21 novembre. Proseguiamo con le uscite, e non solo. Documentari e film. Parliamo ora di migranti, lo facciamo con Paolo Martino, che è un regista, del documentario, le pillole di documentario del progetto Zalab, nello specifico Riammessi, questo è il titolo del lavoro. Paolo, ci sei? Sì, eccomi, ciao. Oh, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Allora, è stato presentato una settimana fa, giovedì scorso, in un'iniziativa pubblica, giusto? Sì, c'è stata una conferenza stampa alla Sala Stampa Estera, qui a Roma. Di cosa si parlava? Praticamente, oltre alla presentazione di Riammessi, che come dicevi è una pillola, cioè un documentario breve, siamo attorno, insomma, la durata è sui 9 minuti, e parla appunto di questo fenomeno che è in atto ormai da molti anni presso tutti i porti dell'Adriatico, i porti italiani, quindi da Venezia, Ancona, Bari, Brindisi. Una volta intercettati nei porti, i migranti che erano riusciti dalla Grecia a intrufolarsi nelle navi, praticamente nei battelli, vengono, una volta che vengono intercettati dall'autorità italiana, vengono rimandati sulla stessa nave, appunto, in Grecia, in violazione delle convenzioni internazionali che regolano questa, diciamo, questa materia. Ecco, proprio in questo senso, per chi ci ascolta, e cosa prevedono le regole in realtà? Ma prima di tutto, appunto, in questo senso ci viene incontro il diritto internazionale, sì, che tutela sicuramente la figura del rifugiato, quindi della persona che è in fuga da un conflitto, e nella maggior parte dei casi le persone che arrivano dalla Grecia hanno questa caratteristica, quindi sicuramente l'Italia dovrebbe prendersi in carico i casi di queste persone ed eventualmente verificare se hanno le condizioni per poi avere lo status di rifugiato. In Grecia si imbarcano persone provenienti da diversi paesi dell'Asia, giusto? Non soltanto dell'Asia, molti provengono dal Nord Africa, sì, alcuni dall'Africa subsahariana. Perché questo? Perché prima della Grecia normalmente la tappa è la Turchia, sì, e come sappiamo la Turchia è un crocevia di rotte che arrivano, come dicevi tu, dall'Asia centrale, dal Medio Oriente, ma anche dal continente africano. Oh, quante persone sono coinvolte in questo fenomeno italiano che li obbliga poi, una volta intercettati, ad essere imbarcati nuovamente sulle navi di provenienza? Purtroppo le cifre non sono limpide, nel senso che l'autorità italiana non è così disponibile nel fornire dati. Si parla comunque l'ordine alle centinaia di persone all'anno. Poi nel 2012 siamo attorno alle 800 persone intercettate appunto in questa maniera, il cui 90% circa è stato respinto verso la Grecia, tecnicamente, come dicevo, riammesso. E tra l'altro alla base di questo comportamento sicuramente illegittimo dell'autorità italiana c'è un accordo di riammissione firmato tra l'Italia e la Grecia nel 1999, che però non ha assolutamente le caratteristiche di un trattato, diciamo, legittimo internazionale. Paolo, parlavi del 90%, il 10% invece che non viene imbarcato? Il 10%, diciamo, che passa attraverso quello che è il percorso standard, il percorso che dovrebbe essere previsto anche per il resto delle persone, cioè vengono praticamente accolte le loro domande di asilo, poi ci sarà una commissione che diciamo intervisterà queste persone per valutare se hanno o meno diciamo diritto allo status di rifugiato. Come vi siete mossi per questa ricerca nei principali porti dell'Adriatico italiano? diciamo che il mio lavoro ha avuto un grandissimo sostegno da parte di MEDU, che è appunto questa associazione Medici per i Diritti Umani, che stava implementando già un progetto lì e che stava raccogliendo interviste per una petizione alla Corte Europea per i Diritti Umani, che è stata già, insomma, che è in via di presentazione e che appunto vuole proprio portare alla luce queste gravissime responsabilità dello Stato italiano. Di fatto io però ho fatto anche leva sul mio bagaglio personale, perché conoscevo già da tempo la situazione greca. Io ho già realizzato alcuni lavori in quella regione, partendo anche da molto più lontano, seguendo le orme, diciamo, dei rifugiati che si muovono su quella rotta già dal confine tra Iran e Turchia, questo nel 2001, e poi via via altri progetti in questi anni. Senti, allora il documentario, questo breve documentario da 9 minuti, è visionabile, se non sbaglio, sul sito internet di Zalab. Esatto, è stato pubblicato sul web, basta andare sulla pagina di Zalab, tra l'altro in questi giorni è proprio sulla homepage, quindi basta digitare Zalab per averlo subito lì. Dopodiché volevo chiederti, questo materiale che avete raccolto servirà a farne una versione allargata, oppure quale sarà il destino di tutto questo materiale raccolto? Ma chiaramente il materiale è molto molto importante, sia da un punto di vista, diciamo, documentario, ma anche da un punto di vista più cinematografico. Io spero di poterlo sviluppare in futuro, integrandolo tra l'altro anche col materiale raccolto su quest'altro versante dell'Adriatico. Sarebbe molto interessante poter entrare nei porti italiani per poter, insomma, seguire la storia anche lì, cosa che non è per niente scontata, perché, insomma, chiaramente l'autorità cerca di, come dire, non è felice di questo interessamento. Ecco, proprio in questo senso, come avete realizzato le riprese? Avete fatto interviste, seguito la cronaca, che altro? No, ci siamo proprio portati nelle zone dove i ragazzi, quindi soprattutto questo Riammessi è stato realizzato alla periferia sud di Patrasso, dove c'è questo grande porto, il Porto Nuovo di Patrasso, nelle cui, diciamo, vicinanze c'è un'area industriale abbandonata. Sì. Sono scheletri industriali degli anni 80 e 90 che sono lì, appunto, delle macerie praticamente, in cui si svolge la vita di queste persone straordinarie, che si portano comunque delle storie allucinanti, nei loro racconti emergono veramente dei passaggi molto molto interessanti e drammatici, e quindi li abbiamo contattati lì e abbiamo avuto grandissima disponibilità. Bene, per avere informazioni abbiamo dato il sito internet di Zalab, e per il tuo lavoro hai anche altri siti di riferimento? Sì, moltissime delle cose che produco sono disponibili sul web, ci sono vari reportage di testo e trailer di documentari, basta digitare il mio nome, Paolo Martino, su Google, e insomma vengono fuori parecchie cose. Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a te, ricambio l'abbraccio. Ciao, ciao a tutti. Paolo. Ciao. Paolo Martino, regista del documentario Riammessi. Allora, ci spostiamo adesso a Roma, perché tra 2 giorni, sabato 23, all'Acrobax, laboratorio Acrobax, ci sarà la proiezione di Punk Football, giusto Giovanni? Sì, esatto, in occasione del nostro 11° anniversario di occupazione abbiamo immaginato di festeggiare tra le varie iniziative anche con uno spazio dedicato allo sport in qualche misura popolare dal basso, ovvero con la presentazione di questo documentario, di questo breve documentario di Daniel Colburn, che è chiamato Punk Football, dedicato ha un'esperienza di azionariato popolare nel mondo del calcio molto peculiare, che è lo FC United of Manchester, ovvero quella società ormai neanche si può dire troppo piccola, perché insomma inizia ad avere ormai dopo qualche anno buoni risultati sia sul campo che in termini di visibilità, che è nata come forma di dissidenza da una gestione troppo orientata al calcio business da parte della proprietà di della ormai non più attuale, se non sbaglio, proprietà di Glazer, un magnate americano che acquistò il Manchester United pochi anni or sono, portandolo a incentivare oltre misura quell'aspetto proprio del calcio commerciale e della speculazione finanziaria correlata al calcio commerciale. Quindi un gruppo di tifosi si è un sostanzioso gruppo di tifosi si è organizzato creando una nuova esperienza a partire da forme di azionariato popolare, quindi di decisioni e proprietà economica vera e propria direttamente gestita dai tifosi. Ne parliamo e nell'occasione verrà presentata anche una versione sottotitolata in italiano appositamente per poter permettere a tutti quanti di assistere. Nell'occasione verrà anche il regista Daniel Colburn, curatore del documentario per la Hardline Production, una piccola casa di produzione indipendente, di cui insomma, è possibile anche visitare il sito hardline.org. Interverranno, abbiamo invitato a intervenire, oltre alle realtà sportive che animano ormai da anni l'ex cinodromo, come gli Orrez, che festeggiano anche loro 10 anni, mentre noi ne facciamo 11 come spazio, loro come squadra ne fanno 10 proprio in questi medesimi giorni. Stiamo parlando per chi ci ascolta di rugby, perché tra poco fa abbiamo parlato per esempio del film Il Terzo Tempo di Enrico Maria Artale, che lui viene anche dall'esperienza del rugby, aveva seguito la squadra dell'Aquila qualche anno fa con il suo primo documentario, e quindi siamo già entrati nel mondo del rugby, e quindi con gli Orreds ci riporti. Sì, ci rimaniamo in pieno, esatto. Chiaramente, e con le due più recenti esperienze di calcio sempre popolare nate a Roma, l'Ardita San Paolo, che è diciamo un po' anche elemento rappresentativo per il territorio in cui si trova il laboratorio Acrobax, e l'Atletico San Lorenzo di ormai ancora recentissima nascita, ma che insomma già mi pare abbia una buona visibilità e un buon seguito. Chiudo aggiungendo solo che insomma contiamo poi su una partecipazione di quante più quelle esperienze di blog pagine web che curano aspetti diciamo particolari del mondo dello sport. Ci riferiamo in particolare a Trappola del Fuorigioco e Crampi Sportivi, insomma a cui abbiamo ovviamente che abbiamo invitato ovviamente ad animare questa discussione, che inizierà a partire dalle 18:30 di sabato prossimo 23 novembre con la proiezione, e appunto successivamente con questa presentazione vera e propria, discussione intorno a quanto può essere interessante di calcio e calcio, sport in generale e cinema e diciamo espressione video e cinematografica di questo mondo. Aggiungo solamente una cosa per i cinefili che magari non bazzicano troppo il mondo dei campi di calcio, per capirci, se per gli estimatori di Ken Loach nel film Il mio amico Eric c'è un pezzo probabilmente poco chiaro per chi un frammento poco chiaro per chi non conosce l'esperienza United of Manchester, ovvero quando gli amici si ritrovano al pub a discutere di quanto il calcio poi possa essere, di quanto si possa decidere sulla propria squadra. Uno del gruppo degli amici del protagonista viene allontanato perché indossa una maglia apparentemente uguale a quella degli altri avventori. Invece ovviamente la citazione è più chiara per chi vive in Inghilterra, probabilmente conosce l'esperienza, ma rappresenta proprio il piccolo conflitto che un po' si è vissuto nel seguito del Manchester United in seguito alla rottura con questa ala di dissidenti. Senti, in chiusura l'orario della proiezione, e poi per curiosità proprio personale, sia per quanto riguarda l'Ardita San Paolo che l'Atletico San Lorenzo, le modalità, la costituzione si avvicina a quella dell'esperienza che hai descritto inglese, ossia un azionariato popolare e altro? Allora, l'orario lo ripetiamo, sì, alle 18.30, a partire dalle 18.30 okay. c'è la presentazione, il video e la presentazione insieme appunto a Daniel Colburn, regista e autore del documentario. Sì, sì, il discorso è quello proprio di promuovere queste due esperienze anche che a partire dall'azione Ado Popolare stanno effettivamente portando una ventata nuova, ancora ovviamente insomma ai primi passi, stiamo parlando di categorie anche ovviamente ancora non eccelse, ma che probabilmente sono quelle insomma in cui è più facile far maturare una consapevolezza dell'importanza di essere parte diretta del mondo dello sport, che sì sicuramente è intrattenimento, ma è anche un modo di trasmettere valori, di trasmettere cultura, di trasmettere anche uno stile di vita sicuramente difficile da difendere, da tutelare, non solo diciamo in generale per la fase che stiamo attraversando, ma anche proprio perché la leggiamo quotidianamente, insomma è un po' oggetto di mistificazione, di criminalizzazione e di mercificazione quando sfugge completamente di mano a chi lo anima in maniera più sincera e di cuore. Bene. Ti ringrazio, un abbraccio e ricordiamo l'appuntamento per sabato 23 al laboratorio occupato autogestito Acrobax, via della Vasca. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio. È con noi Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso, ben ritrovato. Ci sei? Eccoci. Buongiorno a voi. Sì, sì, vi sento. Allora, tutto nasce quest'oggi da un'idea che è partita lunedì sera durante l'assemblea plenaria del Teatro Valle Occupato. Si parlava di SIAE in questi giorni, quell'esperienza, il Teatro Valle è sotto pesante attacco di vari esponenti di spicco della SIAE per la battaglia che sta conducendo per creare anche un'alternativa al monopolio SIAE. Allora è venuta, per quanto riguarda il Cinevalle, l'esperienza che tutti i martedì propone proiezioni e incontri con gli autori, l'idea è stata quella, la prima che mi è venuta in mente ad esempio assistendo a quell'incontro, a quel dibattito, è quella di produzione e distribuzioni dal basso. Così ho chiamato te per dirti perché non ci proponi due o tre titoli che poi stasera verificheremo, discuteremo insomma anche insieme a voi quale può essere il più adatto per un incontro martedì prossimo, martedì 26 intorno alle ore 21 al Teatro Valle Occupato, poi chiaramente daremo ulteriori dettagli, che sia anche occasione, oltre all'incontro possibile con il regista di una di queste tre opere, di un incontro pubblico su queste tematiche in particolare che avevo individuato così a caldo e che sono poi indipendenza e tutela dell'autore e fruibilità dell'opera, giusto Paco? Sì, sì, certamente. Da questo punto di vista noi, sia quando parliamo di produzioni direttamente realizzate dal nostro collettivo, sia quando parliamo invece del progetto di distribuzione al basso, abbiamo subito in qualche maniera seguito e stabilizzato l'idea appunto delle licenze creative. Licenze creative che ormai possono dire definitivamente non essere più una novità, visto che hanno compiuto 10 anni, però sicuramente ci sono state negli ultimi 2 o 3 anni tutta una serie di cambiamenti connessi anche all'utilizzo del web che si fa oggi, che non si faceva ieri, che hanno posto delle prospettive nuove e quindi di conseguenza anche delle problematiche nuove. Io credo che prima di ogni altra cosa la partenza della riflessione sia il paradosso in cui ci stiamo trovando, nel senso che la storia ci insegna che solitamente tu ti trovi di fronte a un impianto legislativo e quello che ogni persona può chiedersi è quanto più o meno radicalmente uno si possa sentire riconosciuto in quell'impianto normativo. In questa situazione specifica di cui stavi accennando e parlando, il vero problema è che ci troviamo di fronte a un paradosso molto più complesso, cioè non siamo ancora nemmeno arrivati alla possibilità di fare questa valutazione, per il semplice fatto che appunto a tutto quello che è l'impianto normativo in merito è assolutamente discontinuo e non chiaro. E questo credo sia il punto di da cui partire con la riflessione, perché ovviamente questo crea ancora più problemi di quello che in una situazione di normalità possono esserci come qualsiasi produzione indipendente, cioè non avere completamente chiaro il quadro normativo, e questo secondo me è il punto da cui partire per quanto riguarda la riflessione che si farà il 26. Allora, intanto facciamo anche un accenno ai tre lavori che ci ha indicati, uno dei quali verrà proposto quella sera, e brevemente come potremmo raccontarli? Sì, allora noi come contributo all'iniziativa abbiamo pensato di proporre appunto tre dei titoli che abbiamo nel nostro catalogo. Uno di questi è All'ombra del gigante, che è un lavoro appena uscito, estremamente ben fatto, realizzato da un gruppo di ragazzi che appunto sta giù a Roma, ed è l'anteprima mensile di novembre 2013 di Distribuzione al Basso, anche perché appunto in questa fase noi stiamo adesso lavorando molto sulle prime visioni. E il secondo è Kosovo versus Kosovo, che invece è un lavoro di inchiesta giornalistica appunto realizzato in Kosovo un anno e mezzo fa, quindi ormai con un suo percorso stabilizzato, e che arriva da una menzione speciale ottenuta il mese scorso al Terrazzi Tutti Film Festival di Bologna. Il terzo invece è un film appunto realizzato due anni fa direttamente dal nostro gruppo di produzione, che è Tomorrow's Land, appunto un documentario realizzato in Palestina uscito nel 2011, che in qualche maniera, almeno per quello che è stato il nostro percorso all'interno di questo ragionamento, quindi licenze Creative Commons, crowdfunding e un modo diverso di produrre e distribuire, è stato il nostro, potremmo parafrasando, dire che è stato il nostro esperimento pilot. E quindi poteva essere insomma interessante anche da questo punto di vista riflettere su come è stato realizzato e su come poi è stato distribuito. Oh, Paco, parlavi di un decennale ormai per quanto riguarda Creative Commons e crowdfunding. Ecco, raccontaci anche un po' dell'esperienza di produzione e distribuzioni dal basso. Sì, allora le licenze Creative Commons hanno appunto compiuto il decennale qualche mese fa, e quindi chiaramente stiamo parlando di licenze che sono andate anche nel corso del tempo perfezionandosi, anche perché appunto ci sono stati vari aggiornamenti anche di queste licenze. I meccanismi di crowdfunding invece sono un po' più recenti, soprattutto in Italia, nel senso che all'estero la cosa è stata avviata già tempo fa. In Italia invece, come ben sapete, hanno preso vigore e forza negli ultimi 2 o 3 anni, anche se l'esperienza fondamentale e fondativa di produzione dal basso dei ragazzi di Milano ha aperto sicuramente un percorso, un immaginario, e produzione dal basso è stato fondato 8 anni fa, quindi comunque la riflessione parte anche dagli albori, diciamo. Distribuzione dal basso invece, appunto, il nostro portale Antrat all'interno delle proprie mission, quella appunto di sostenere queste nuove produzioni, quindi a gruppi emergenti, realtà emergenti e registi emergenti che scelgano non per forza come metodo prioritario, ma come condivisione di una prospettiva condivisa, un certo modo di produrre, quindi attraverso i meccanismi del crowdfunding, e soprattutto un certo modo di concepire la diffusione e la possibilità di utilizzare la propria opera creativa. E quindi appunto arriviamo a quello che è tutto il discorso sulle licenze, anche perché su Creative Commons, apro chiudo una parentesi, nonostante appunto la veneranda età di 10 anni, in realtà hanno, soprattutto in Italia, vengono spesso ancora percepite e mal comprese, nel senso che a volte la percezione che si ha è che il Creative Commons significhi volontariato, e questo è un mito da sfatare velocemente e radicalmente, perché in realtà all'interno delle diverse licenze, perché poi sono diverse le licenze Creative Commons, ci sono tutti gli strumenti necessari all'autore per poter anche difendere la propria opera in alcuni casi specifici. Ovviamente il vincolo principale, quasi unico, è quello del commerciale. Chiaramente, nel senso, come ben potrete intuire, un conto è io faccio in modo che liberamente degli studenti, dei corsi di studio, delle associazioni o dei singoli utenti possano usufruire di una mia opera. Altra cosa ovviamente è se qualcun altro ci fa del business sopra. E da questo punto di vista ovviamente le licenze hanno tutti gli strumenti legali per poter possono essere attivati tutti gli strumenti legali nel caso, per poter anche difendere la propria paternità dell'opera qualora qualcun altro ritenga di volerci fare insomma del lucro sopra, che in questo caso mi sembra ovvio e assolutamente illegittimo, a meno che non ci sia stato un preventivo confronto con il creatore. Certo. Paco, un'altra cosa, ecco, sui criteri di scelta che guidano il vostro operato. I criteri di scelta rispetto ai titoli, intendi? Esatto. Allora, noi siamo partiti i primi mesi esclusivamente con proposte di documentario. Questo non è stata una scelta voluta, tra virgolette, o precisamente redazionale, ma anche qui fa parte della riflessione. Non è un caso che i primi lavori siano stati dei documentari, perché il crowdfunding e il Creative Commons, almeno nel settore nuovo che sta emergendo in questi anni, è nato e vissuto principalmente in questo tipo di format. Adesso ci stiamo aprendo in questi mesi a diverse collaborazioni, sia con l'inserimento di alcuni progetti musicali, ad esempio l'album di un collettivo di ragazzi di Bologna che ha un collettivo di musica hip hop, ed è già, appunto, quindi si è già aperta una sezione musicale. Ma soprattutto stiamo affinando proprio in queste settimane l'apertura di una collaborazione stabile con Circuito Nomadica, e quindi l'inserimento a quel punto anche di tutta una serie di lavori invece che sono più legati appunto al cinema di finzione. Sì, dal sì, punto sì. di vista invece della domanda che mi facevi più specifica, cioè i criteri di selezione eccetera, è chiaro che la redazione del portale valuta volta per volta appunto il lavoro che viene proposto. Da un certo punto di vista è quello che abbiamo anche cercato di spiegare nella sezione come funziona del sito. Principalmente, se si parla di filtro politico, si parla esclusivamente di non accettare contenuti che in qualche maniera vengano ritenuti offensivi, razzisti, sessisti e xenofobi. Per tutto il resto ovviamente sono valutazioni che si fanno all'interno della redazione. Ma ci tengo a precisare una cosa importante: essendo un progetto che vuole sostenere i registi e le produzioni emergenti, siamo perfettamente consapevoli di tutte le difficoltà logistiche, economiche e anche di livello di professionalità che a volte dei lavori possono avere. È chiaro che la priorità viene data in certi casi prima che alla qualità tecnica, perché ognuno ovviamente ha il proprio percorso di miglioramento, alla storia viene data, quindi a ritenere eventualmente una storia che possa essere interessante, che guarda caso magari dai circuiti mainstream viene volutamente lasciata fuori da quei circuiti. Sì, quindi sicuramente sì. Quello è il primo punto di analisi che noi attiviamo quando ci confrontiamo in redazione. Bene, allora riprenderemo il discorso martedì prossimo. Allora ricapitoliamo: martedì 26 novembre alle ore 21 ci sarà la proiezione di uno dei tre lavori che ci avete indicato, e poi non so ancora se prima o dopo in collegamento Skype su grande schermo ci sarete voi, che siete a Bologna quasi tutti, se non sbaglio. Sì, esatto, la redazione è qui. La redazione a Bologna, e quindi ci sarà un confronto via Skype. I temi sono quelli che avevo indicato all'inizio indicativamente, poi chiaramente possono essere arricchiti e variati, ma in buona sostanza indipendenza, tutela dell'autore e fruizione di un'opera. Paco, io ti abbraccio, ti ringrazio e sicuramente ci sentiremo via Skype a questo punto. Perfetto, un abbraccio, grazie a voi. Ciao. A presto. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso di Bologna, e con questo chiudiamo. Ricordando anche che quest'oggi la trasmissione del Teatro Valle Occupato non è andata in onda per impegni di chi la manda avanti. Per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento è sempre il giovedì dalle 14 alle 15. I riferimenti: per quanto riguarda internet, il sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 21 novembre, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, comprendenti festival, rassegne e proiezioni, e poi il link che vi può portare alla puntata precedente, ma anche all'archivio del 2013 e del 2012. C'è anche la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. È tutto, buon proseguimento, a giovedì prossimo.